chiamata lì, Carlo. Oh, ciao Carlo. E sono rientrato adesso da farmi un giro in bici. Sono salito a Osilo, dalla strada vecchia, e sceso dalla nuova. Ho fatto tutto il giro, 20 chilometri, ovviamente con pedalata assistita, e non è che voglio fare l'eroe, però gli a pedali. Fino a vedere se è cresciuta l'erba in campagna. Sono... un attimino mi sono fermato a fare pipì, sono sceso lì in un campo, mi arrivava sino alla vita. È cresciuta per forza, non ci sarà qua che ha fatto. Qualche settimana fa, sempre nello stesso punto, neanche alle ginocchia mi arrivava, adesso mi superava la vita, come ha piovuto. E poi sei riuscito a prenderti la tastiera? No, negativo, alle 6:15 devo andare a fare un corso e quindi devo uscire, volevo volare, già vengono a pigliarmi, così non sporco la macchina. Ho capito, e allora se riesci fai tutta una tirata, dai. Ho capito, non c'è nessun altro, io mi adesso ho provato a accendere come sono rientrato. Sul 5 c'è qualcuno, mi sa che c'è Franco, però non ho capito con chi. No, io ho acceso appena adesso, ho acceso e... perché mi stavo preparando, perché alle 6:15 viene a prendermi dell'amico. Ho capito, prima quando era a Osilo avevo la radiolina, sentivo Andrea, penso che sia un radioamatore, sul 4 in AM, si parlava con un altro, però ho riconosciuto lui perché arrivava bomba, evidentemente stavo uscendo con tipo con 100 watt e qualcosa. Li sentivo su a Osilo. Ho capito. Sì, niente, ho provato da dove ero ieri, più o meno dove abita Claudio, ho chiamato a casa su un altro canale e c'era mia figlia, gli ho detto se mi senti alla radio rispondermi a vedere come mi senti, e arrivavo, però esce bene in FM quella radiolina, invece in AM non è, secondo me, centrata la frequenza, come cambi in AM non si sente, non si capisce, sembra fuori banda, capito? Se quando avrò tempo la apro e vedo un po' se riesco a regolarla in AM. Ui. Mi devo costruire questa antenna a luffo, mi devo fare. La tua radio? Come? La tua radio? No, questa antenna, un luffo magnetico devo fare. Ah, ho capito. Sempre sperimentando, insomma. Per ricevere? Riceve, come, dove lo attacchi? Dentro casa, quello. E allora? Ricevere, riceve, così. Eia, dovrebbe ricevere. Mi sa che anch'io mi organizzo qualcosa per la ricezione, capito? Solo per ricevere. Lascio questa per trasmettere in 27. E poi ne metto un'altra se riesco, o metto un discone, qualcosa del genere sul tetto, cioè già ce ne ho spazio per metterlo. E infatti, le metti ai piedi dell'antenna, via. E chiudi il tubo là. Così al limite mi faccio un'altra discesa e utilizzo un cavo più sottile per al posto del 213, capito? Il 213 lo lascio questo per questa radio e poi gliene affianco un altro in parallelo, glielo mando e magari mi attacco un'antenna per ricezione. E potresti mettere un altro cavo, sai? Di cavo, diciamo, non lo so, devo controllare di quello sottile che ho giù quanti metri ho. No, quanti metri te ne servono per sapere che cavo devi mettere? Guarda, sono 3, 6, 9, 12, un 25 metri sono. Guarda se trovi l'H155 che è a livello 213 ma è fino come l'EVG58. Sì, ma infatti già ho intenzione di mettere qualcosa di buono, di sottile ma di buono, capito? Questo H155, diciamo, già ne ho sentito parlare bene da chi lo usa e dovrebbe andare bene anche per la ricezione, no, Natalia? Oh, forse perché più può coprirvi meglio è per la ricezione, capito? Giovanni, avanti Giovanni, Fanni, avanti, ti sentiamo, ti prego, ha chiamato Giovanni e poi non si sente più adesso. E lo sentivo anche abbastanza bene, era un Santiago 7 qua, però poi non ho cambiato canale, non lo so. Giovanni, ci sei ancora? Ragazzi, io non lo sento, forse ho cambiato canale. Può essere, può essere. È perché lui magari si spazientisce, se non, magari i segnali nostri sono più forti, capito? Se non lasciamo spazio da una trasmissione all'altra, lui non riesce a entrare. Io l'ho sentito poco a poco, ho riconosciuto la voce, però forse quando gli ho detto avanti non aveva già girato, magari aveva fatto qualche altro tentativo. Oggi di riposo sì. Sì, oggi sì, ho fatto 4 mattine, un giorno, adesso riposo, e domani rientro di sera. Scappa. Una rottura, adesso d'estate aumentano i voli, i voli che ci sono quasi tutti pieni, almeno quelli Ryanair, EasyJet, Wizz Air, quelli sono sempre pieni, 180-190 passeggeri ognuno, quindi in una sola mattinata diciamo che riusciamo a caricare a volte anche 2000 persone, contando anche quelli della continuità. Adesso dal 15 non c'è più Volotea e riprende ITA, che è la ex Alitalia, a fare i voli della continuità Roma, Fiumicino e Milano Linate. Quindi ci sarà cambio di equipaggi, di aerei, insomma, sempre cambia stanno. Ma sapeva era provvisoria. Volotea, capito? Volotea si tiene solo la continuità di Cagliari, fa Cagliari, Roma e Milano, e Olbia, Roma e Milano, capito? Invece Alghero lo lascia perché non ha base, invece ITA fa la base qua, la base significa che gli aerei li lascia qua in sosta notturna e quindi la mattina sono garantiti, capito, che partono di prima mattina, perché quelli della continuità devono essere così, come arrivano fanno la manutenzione la notte e sono pronti per la mattina, hai capito? Invece Volotea era costretta a tenerli fermi gli aerei, come a dire l'ultimo volo alle 22, quando invece loro, essendo una compagnia low cost, magari volano sino a mezzanotte, l'una di notte, le due di notte, però quello stesso velivolo diciamo si deve fermare ad Alghero per la manutenzione, perché poi la mattina deve ripartire da Alghero, capito? Invece non gli conveniva, invece là dove hanno le basi a Cagliari e a Olbia ne hanno qualcuno in più che lo lasciano per la continuità e quindi là hanno tutta l'assistenza a terra già, invece da qua stanno già portando via tutto dal vero. Invece ITA deve riportare tutto di nuovo, dai tecnici a materiali eccetera, capito? C'hanno un hangar dove tengono tutto, adesso in questi giorni ci sarà via vai, spero che non mi mandino al vacco carraio, se no devi controllare tutto, i mezzi, i permessi, chi entra, chi non entra, fare le ispezioni ai mezzi, insomma, dovrei forse svignarmela questa volta. Forse stai facendo quello per Radio Amatore, Natali. E allora? Sassari l'ho fatta, sì. Sì, signore. C'è una sessione Ari qua a Sassari. Ma quelli di Sassari non fanno nulla. È una sezione di Porto Torres che lo fa a Sassari, di cosa? Sono quelli di Porto Torres, l'area di Porto Torres. Io ho già scritto lì una volta, solo che non mi ero potuto presentare perché si era sentita male mia madre e quindi ho perso l'esame. Ho capito, e a me mi viene salita a frequentare corsi perché essendo turnista a volte sei di mattina, di sera e non è sempre che ci puoi andare. Invece se avessi avuto un orario tipo giornaliero, che sai che finisci la sera alle 5, allora ti liberi, magari ti puoi programmare il corso sempre di sera, dalle 5 in poi e magari magari così ci sarei riuscito, invece con i turni è impossibile. Ma non è possibile al lavoro a studiare? Sì, d'inverno sì, d'estate meno perché abbiamo troppo da fare. D'inverno sì, perché i voli sono meno e quindi la sera o quando facciamo la notte che siamo soli, lì puoi leggere, studiare, insomma. Cioè, il problema è che non frequentare il corso è che mi sarebbe piaciuto perché insomma anche quello è, serve, capito? Magari studiare, poi fare il corso, però penso che quando andrò in pensione magari che avrò tempo libero. Ma io pure lo sto facendo adesso, perché non sono riuscito fino adesso. Santi, chi c'è che vuole entrare? Che è avanti, ola ola, che ti sento, chi sei? Basso basso ma ti sento. Guarda, il segnale è Santiago 6, radio 3, ti sento molto basso di radio, ma anche di segnale. Da dove stai trasmettendo? Certo che posso passare, vai in FM allora. Sì, ci sei? Avanti, fare un passaggio più lungo. E adesso ti sento Santiago 7, radio 4, molto più nitida la radio, più forte anche il segnale. Ma da dove stai trasmettendo? Io sono Carlo e sto modulando da Sassari. La radio diciamo più roboante così, il segnale 7 sempre, prima era più chiara, esatto, così molto più chiara, capito? E io come ti arrivo lì ad Alghero? Tanto io sono qua in ascolto, se vuoi e dopo ripassi in AM perché stavo parlando con un altro amico di Sassari, a volentieri, ma tanto penso che ci senta l'amico anche se siamo passati in FM. Comunque dai, ritorno in AM. Ma lì lo sentivi tu questo di Alghero? Non ci ho fatto caso, non sono passato io. Ero qua e mi veniva difficile, adesso ho trovato la frequenza senza le memorie, perché se no non posso spostare, capito? Stava facendo delle prove, ha detto, stava provando delle radio, prima lo sentivo basso in AM, poi in FM arrivava a Santiago 7, radio 4, e stava trasmettendo da Alghero, e gli ho detto che eravamo qua, se vuole fare altre prove non ci sono problemi. Ne scappa. Va bene. Adesso mi do una rinfrescata e rimango in ascolto. Ci sentiamo dopo, Natali, oppure stasera quando rientri. Cappa, va bene. Buona luce allora, le frusci. Ti ha fatti bene, Natali. Ciao, Carlo, ciao. Ascoltate l'isola della Sardegna Italia che chiama, cambio. Hola, attenzione, canale 10. Attenzione, se ascolti Italia, Sardegna, cambio. Hola, attenzione, canale 10, isola della Sardegna Italia chiama. Ombre, è che ti provando qui una mitola. Attento, ombre, attento, se ascolti l'isola della Sardegna Italia. Sì. Andale, andale! Danni? Eia? Ce l'hai? Buonasera! Come va? Uia! Cazzo, tutto bene? Bene. Qua c'è propagazione a gogo. Già sto sentendo spagnoli con Santiago 7-8. Niente, mi è finito di farmi una doccia, ero uscito in bicicletta. Dopo, se ne ho voglia, vado da Bricoman perché mi serve del velcro per attaccare una zanzariera, capito? E poi devo vedere delle altre cosette, se mi basta il tempo però in serata, se no ci andrò domani mattina. Io stasera c'ho un impegno lo stesso. cava cava, e quindi smetterò presto perché devo portare il cane, fargli da mangiare e tutto, perché poi sono fuori a cena. Anche io, anche io. Mia moglie è andata con mio figlio alla Fondazione Banco di Sardegna perché c'è l'inaugurazione di una mostra d'arte, e io non ne avevo voglia perché ero uscito in bicicletta, ho detto mi faccio la doccia, adesso poi vado a prenderli, mi prendo mia figlia e mi sa che ce ne andiamo a mangiare a cena fuori. Sì, fa bene, è una bella giornata, oggi mi sei in posto di mare ancora meglio. No, noi rimarremo a Sassari, magari vediamo un po', adesso mi, col telefonino mi metto a vedere se è aperto Monte Cristo, perché sono almeno 2 anni che non ci vado, c'era la pandemia, tutto chiuso, quindi non so se ha riaperto, perché lì si mangiava benino. Perché non vai quella che ti ho consigliato io, la Ruccia? Oppure andiamo lì, adesso che me l'hai ricordato, anche lì posso andare, ma bisogna prenotare già anche lì. Prenota, perché venerdì lo sai com'è, no, è tutto pieno, venerdì e sabato. Non so se fanno, se, non penso che ci sia musica lì, invece se vuoi il posto dove c'è musica vai al Backstore e lì c'è la musica. Aspetta, ci sono gli spagnoli che arrivano forte dietro. Ma non rispondono però, non penso di non che non mi sentano. Però non lo so, vabbè, noi facciamoci le 4 chiacchiere nostre. Niente, prima ero con Natalino un trequartito d'ora fa, e poi ho chiuso la radio, era accesa, avevo abbassato un po' il volume perché ero sotto la doccia, e niente, adesso ho sentito che c'era un po' di segnale, ho detto ho alzato, ho sentito la tua voce. E cosa ti stavo dicendo? Natalino mi sa che c'era un corso stasera, per cui doveva uscire intorno alle 6. Ah, ho capito. Vabbè, molta gente sta facendo questi corsi, penso, boom. Che cosa, di che cosa si tratta? Corso di radioamatore? Sì, mi sa di sì. Io l'avrei anche fatto, ma non ho tempo, cioè non ci riesco perché facendo i turni, capito, sei a volte di mattina, a volte di sera, quindi avrei saltato un sacco di lezioni così, perché immagino che i corsi siano concentrati, per dire, in un paio di mesi, sempre di sera, a quell'ora, in quel posto, ma io non posso garantire sempre la mia presenza, diciamo così, del corso, per cui non l'ho mai fatto. Mi sarebbe piaciuto poterlo fare, perché quando fai il corso poi ti metti anche a studiare, magari riesci pure a passare l'esame, però quando andrò in pensione, che magari ho più tempo, se ne ho voglia lo farò allora. E quando se ne parla, Carlo? Io ne avrò 7-8 anni ancora. Sì, a te non mi temo. Purtroppo con i turni dovrò fare 7-8 anni di turni ancora, e quindi non lo so, se no ce ne stiamo qua in 11 metri, buonanotte. Ah, io mi trovo benissimo qua. Sì che c'è gente, mi trovo bene, non c'è problema. Solo che adesso tutti i cibi stanno diventando radioamatori, per cui stanno sempre diminuendo. Vabbè, qualcuno entra ancora, tipo Roberto, eccetera, eccetera, entrano anche qua. Io, diciamo, un po' di radioascolto lo faccio, per cui anche là non è che c'è tutta questa grande calca di gente, capito? Sui ponti ripetitori magari puoi sentire qualcosa, quelli a livello nazionale, in UHF, però si limitano sempre ai saluti, questo, quell'altro, due chiacchiere sempre di apparecchiature radio, e sono più o meno gli stessi discorsi che facciamo noi, capito, anche qua, per cui anche a me va bene anche questa. Poi se proprio vuoi ti metti una bella antenna per fare radioascolto e ti ascolti un po' tutte le bande, capito? Anche l'apparecchio ci vuole, io non c'ho nulla. No, né apparecchio né antenna, per cui eppure sono SWL, perché ho diploma di SWL. Ho capito, sì, ci vorrebbe un bel apparecchietto per il radioascolto e un'antenna. antenna esterna, capito, sul tetto, in maniera tale che così fai due discese separate, in una ti lasci la radio degli 11 metri e l'altra, quando non c'è nessuno, ti metti a fare radio ascolto, capito? E adesso poi non ci vuole più la cosa, la concessione per fare SWVL, dai. Non ci vuole più niente, non in offre di più nulla della 27 alle poste telegrafiche. Perché mentre in passato tanta gente utilizzava la cosiddetta banda cittadina, quindi le radio CB eccetera, poi hanno visto che è diminuita talmente tanto che alla fine quello che incassavano era talmente una cifra irrisoria, capito, che hanno fatto prima togliere tutto, se no a dire i pochi citizen bank che rimangono, che sono potenziali poi radioamatori, perché molti dopo tanti anni tentano gli esami, capito? Loro forse hanno più introito dai radioamatori con la tassa, con quello che pagano per la patente, insomma l'esame, tutto quanto. Sicuramente è così, vai Gianni. E i radioamatori pagavano meno di noi, mi pare che pagavano 5 euro e noi ne pagavamo 15. Ne pagavano meno di noi, capito? E comunque una volta che ci sei, che diventi radioamatore, poi la tendenza è quella sempre di rimanere, quindi per loro, anche se pagano di meno all'ente poste italiane, comunque sono quelle entrate sicure per tanto tempo. Poi il radioamatore, quando ci sei, ci diventi, ci rimani sino alla fine, capito? Per cui quello che paghi è sempre costante. Invece nella Citizen Band molti finivano a un certo punto, mandavano la disdetta e non pagavano più, capito? Guarda, a me ci sono 42 anni in frequenza e ci sono stato sempre, ho sempre fatto la concessione, ho sempre pagato la tassa, per cui non sono tutti così, Carlo, c'è gente che come me che c'ha la passione e rimane. Io ho sempre avuto l'apparecchio, anche quando poi per 10 anni è scomparsa un po', c'era qualcuno che modulava, io ascoltavo, facevo ascolto e per me andava anche bene così, capito? Però ci sono sempre stato in frequenza, non me ne sono mai andata, da quando sono ragazzino. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ciao, io guarda un po' che ho cambiato, ho messo il microfono dell'MP40 e questo Polman, omologato, meglio o peggio? A me non piace, Antonio, ti devo dire la verità, io lo sai che sono schietto. Non mi piace, è citofonica la radio. Se citofonica va bene, prima non usciva proprio nulla, almeno adesso si sente che è migliorata, si cresce un po' di applicazione, ma prima non usciva proprio un accidente. Se dice anguri alla prova, sembri quello che vedono gli anguri. Già, però già va meglio, là. Questo è molto meglio, questo è il microfono del Bobby con 40 in pratica, io l'ho inserito, tanto sono quasi uguali a quello del format originale, è montata la capsula quella pietrifica, quella piccolina, avanti Carlo. Sì, Antonio, sì, ha ragione Gianni, cioè la radio è chiara, nel senso si sente bene eccetera, niente da dire al segnale, sempre quello, però è un po' chiusa, capito, effetto citofono come ha detto lui, mentre prima la voce tua era più aperta, capito, però già si sente abbastanza bene, dai. Simile al Cicapuccio, c'è tu in macchina, quindi figurati, è un malattio piccolo, è dovuto adattare vari microfoni, l'unico è questo, e sono riuscito a piazzarli, e se magari va di bene. Ok, adesso entro con l'altro, così mi sentite molto ma molto meglio. Aspetta, ecco, con questo attacco l'altro. Questo qua ti piace tanto. E questo è la voce tua. Questa sì che è la voce mia. Questa è la voce aperta. Vero Gianni, lo senti meglio adesso? Adesso sì. Ma poco fa facevo fatica a capire cosa diceva, troppo chiusa, troppo citofonica. E rimane lì, come quando prendo il megafono per dire cosa ti posso dire. Cosa ti posso dire? Manifestazione studentesca, ecco, quello lì, quello che si prende in mano con il coso per prenderlo, no, quel megafono lì. Sembra quello. Già lo so, già lo so. Ma prima non riusciva proprio niente quel banchino. L'omologato. Già sentivi, te lo ricordi Natale come usciva. Lui ha pigliato prima di me, io ho pigliato dopo di lui, me la fregatura ha preso. Ho pagato 80 euro e qualche cosa, costava 60, l'ho pagato 80, figurati. Quando l'ho provato me la sono sentita le braccia, l'Italia proprio faceva schifo. Già lo sentivo anch'io, adesso li fallo andare, l'unica cosa che gli hanno dato. Io avevo messo il DB1000, dopodiché il DB1000 l'avevo prestato l'apparecchio un amico mio e gli si è crepato in mano, in macchina. Allora adesso mi ha regalato Savelio questo microfono della Intec, l'MB40, che è quasi preciso l'originale. E ho visto che già funziona. Quindi ci ho messo quello e è perfetto. Quello si sente la radio adesso, ma prima nudda. Sai vuol dire quando parlavo sentivi solamente. Questo che sto usando io della Lafayette è un microfono normale, come va? Già va bene, è il tipo dell'apparecchio che non serve a niente, capito? Il Colma ZX40 già lo conosci. A me lo posso usare, ho capito. È sempre stato, da quando l'ho comprato, se l'ho usato due volte e anche troppo io, quell'apparato lì. Allora io il Polmar conoscevo, quello 23 canali, quello blu metallizzato, dice sì che pompava lì. Quelli sì, c'era il Polmar Nevada anche, che usciva forte, quello con il frontale grigio con i led rossi. Ma i polmar che stava facendo adesso sono tutti con microprocessori, non lo puoi toccare dentro, nulla, non c'è manco LC, nulla, non esiste LC qua dentro, capito? L'unica cosa che puoi fargli è fare un ponticello e aumentargli il watt, perché ne tira fuori 3, non di più, e poi un altro ponticello e ti dà 200 canali. Sono gli ultimi apparecchi che stanno costruendo adesso che fanno pena, capito? Questi piccolini. Gli unici che escono bene sono i 3009, vedi, come c'è la Macro Condor, eccetera, eccetera, che sono omologati, però escono come i cristiani. Anche io ce l'ho il 3009, nuovo, anche la scatola c'ho, tutto gara. Nuovo di zecca, uso pochissimo. E ogni tanto lo attacco, però non lo uso molto, dai. E va molto bene, c'è una ricezione, una trasmissione con l'apparecchio che è una favola. Non so, non dirlo a me. Ce l'ho, io c'ho il 2009 che l'avevo pensato a Carlo, quello nero, e poi c'ho il Codex 4000 che gli ho messo la mascherina del 2009, il Codex 2009, è perfetta, è bella, è bello da vedere, infatti gli ho mandato anche la foto a Carlo. Questi sono gli unici due apparecchi che ho tra delle, il Saturnetto. Che vanno bene, ma proprio questo ZX40 non so come abbiamo fatto a costruirlo e a uscire in quelle condizioni. Non si può manco nulla, non puoi toccare manco i trim sono talmente piccoli che devi farli col cacciavite, quello il più piccolo che c'è il coso a taglio, poi il trimmer gira tutto, non si blocca come i trimmer normali, capito? Ho capito, va di continuo, tipo una vita senza fine, avanti Carlo. Io Antonè, il tuo l'ho usato quando ieri sera ho fatto un collegamento con le Canarie e mi sentivo arrivano Santiago di Nove con la tua radio e non ho dovuto toccare neanche la regolazione col tasto fine, capito? È centrato, l'ho lasciato perfetto così e andava benissimo in SSB. Quale? Il Galaxy? Sì, esatto. Quello lì è bello, dai. Questo di Antonello è veramente, c'ha un bel audio, poi quando lo senti poi va bene che ce l'hai frontale, per cui esce bene anche bello grande, capito? E come radio è perfetta, no, non gli puoi dire niente, bella veramente, però è grande, io già l'ho sistemata qua in cucina, però l'ho tolta stamattina perché mi serviva lo spazio, capito? Adesso me la sono riportata giù e niente, uno di questi giorni, Antonè, te la rendo insieme a quella cosa buona che ti ho promesso. Sì, va bene, no? Non c'è problema. Gaba. Ci avevi messo dentro un buco giusto, che bello è quello, dentro quella, ci stava giusto, se avessi fatto un coso col gasmetto, sarebbe stato tipo radio di apparecchio di aeroporto. Lo so, solo che adesso non ho voglia di fare niente, per adesso lascio tutto così, ho sistemato questa mia piccolina, ieri ho tirato fuori, sono uscito in bicicletta, mi sono portato un portatilino CB, piccolo, però ho notato che riceve bene la M, in AM riceve perfettamente, ma non esce bene in AM, mentre invece in FM esce benissimo. Sono tutti apparecchi nuovi che escono così, no? Capito? Anche questo in FM esce bene, quello di cosa? Il Pullman, ma in AM per carità. Capito, sono tutti apparecchi così, ce l'ho voluti, vedi, se avevi avuto, non dico i portatili, modello vecchio, quelli già turbano già, con quell'antenna a filo quasi 1,20 m. Lo so, infatti mi ha fatto meraviglia ieri, hai visto che mi hai sentito tu da casa tua, me ne stavo andando a letto e che lo stavo cercando di regolare, di capire come mai non si sentiva, nonostante non esca bene in AM, tu sei riuscito a captarmi con un segnale basso, immagino. Santiago 1, quasi 2, dai, una cosa del genere. Se hai avuto il portatile, quello della Inter, che è quello plastificato, con altri canali, quello già andava bene. Solo l'unico problema è che montano antenne lunghe, capito? Antenne quasi da 1 metro. Però vedono quei portatili. C'era addirittura uno, si chiamava Baio, c'era un modello che pesava, mi chiamava il pacco batterie dietro, l'attacco per il microfono, addirittura era il primo che avevano fatto col display digitale. Quello è... non sono riuscito più a trovarlo, dovendo quello avessi fatto 13. Perché pesavano, io una volta avevo usato in campagna quel tipo di portatile, era da lì da avere produttore, si arrivava tranquillamente al magistero, segnale di nome, con l'antenna sua. Ho capito, prova Gianni a fare un passaggio tu, a vedere se ti sento con questo portatile. Guarda a vedere, non lo so se mi ascolti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, ho eliminato l'audio dalla radio, il tuo segnale nel portatile fondo scala, radio Super 5, ti ripeto, ti sento perfettamente. E anche io quando portavo il cane giù me lo portavo il portatile e parlavo, ma consumava troppe batterie, non fa. Quelle ricaricabili non ti durano, ti durano la Natale a Santo Stefano, le altre le consuma, basta che le usi una o due volte e te le consuma. Non fanno. Comunque io sono arrivato anche a Porto Torres col portatile, dalla strada che porta da casa mia verso il monte, quella strada nuova, salendo lì col cane, ho parlato con Porto Torres. Sì, io stasera praticamente sono uscito in bicicletta, me lo sono portato e ho notato che c'è, perché sono quelli con la frequenza multistandard, capito? E ho messo una frequenza da 34 canali e ho visto che ci sono frequenze sotto il 26, 8, 7, 5, qualcosa del genere. Ho provato a chiamare a casa ed ero a Osilo in FM e mi sentiva tranquillamente mia figlia, mi ha risposto. Figura. E con l'antenna dell'apparecchio. Sì, esatto, con l'antenna del portatilino. Eia, ti sto dicendo, anche il mio pompa forte, va molto bene quel portatile che c'è, della Intec. Va molto, ma molto bene. L'unico problema che c'è è che dovresti avere una di quelle batterie che si mettono a tracolla, però pesano, una rottura di scatole. Se serve proprio qualche manifestazione, qualche cosa così, sì, lo porto, ma c'è anche l'attacco per la batteria. Si puoi mettere anche in macchina, lo puoi mettere, capito? Lo metti in macchina, attacchi l'antenna della macchina, perché io ho l'attacco a baionetta, attacco l'antenna della macchina, gli avvito il piede lì e lo parlo dalla macchina. E vai, riciclo. Sei bella. Carraghiere. Ciao Claudio. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Claudio. Che cosa siete facendo? Sono chiacchiere così, parlando del più e del meno. Dottore, sono il portatile, quando portavo il cane. Mi ha risposto Sandro la volta che ho chiamato. Ha detto, ti ascolto basso, ma ti ascolto. Non mi ricordo anche bene a casa quando ero a Carmonazzi. Qua sicuramente si usa il portatile molto meglio. Carlo arrivava benissimo, che cazzo già stai pompando poco, sì Carlo, hanno il cacchio su legnare. Distorce la radio? No, non distorce, la 69 più 60 che fuga mali. E sto uscendo con 50. Vabbè, tu arrivi 9.30, aspetta che abbasso, tu arrivi 9.30, abbondante, già liscio, quindi figurati. Sono stanco, adesso lo abbasso un po', dai, scendiamo, guarda così, va meglio. Qui sei 9.35, quasi 40, ma puoi lasciarla aperta. E lo stacco, se no. E intanto non c'è bisogno, già ci sentiamo lo stesso, che problema c'è? Ho fatto addirittura con la multibanda, perché oggi ho montato la multibanda dalla pigra a W. E mi arrivi 9.30 anche con la multibanda, figurati. C'è un radioamatore che si chiama Andrea per caso. A Sassari, però non a Osilo. Sì, a Sassari, io lo sentivo, però era sul canale 4, no? Sulla 27 stasera. Cavolo, arrivava a fondo scala su a Osilo. No, non è radioamatore. Andrea antenna di 27 non ne ha ed è 20 anni che non entra in 27, assolutamente. E qualche altro Andrea? Allora era qualche altro Andrea, parlava infatti con un altro, però l'altro lo sentivo con un segnale basso basso. Io da Usi non so dove sono arrivato, a Basanta, e ho parlato con lo stesso, con Roberto Rapido, che mi aveva fatto l'apparecchio, che aveva fatto lui, lo stavo usando io, e mi riceveva 9, 10, qualcosa del genere. E da Usi lo a Santa Vittoria, figurati che mi erano ritano qua, S7, parlano sempre sul canale 30 la sera sul tardi, S7 mi arrivava ritano qua, a casa mi arrivava più basso, dove ero prima mi arrivava più basso, perché è molto aperta come zona per lì. Guarda, sicuramente non era neanche a Sassari, o era qualche paese vicino, capite? Codrongianos, Ossitissi, Uri, Usi, non lo so, perché secondo Doveri arriva bene anche Olbia e su Ausero, in punta, quindi... Carlo, ci vai spesso lì al Nido dell'Aquila? In bicicletta, faccio per salire la vecchia strada, poi entro dentro il paese e scendo dall'altra parte, capito, dove c'è la ferrovia, e poi passo davanti a casa di Claudio. Prima prima passo alle spalle della casa di Claudio e poi passo davanti. Ah, ecco. E c'ha quell'autonomia, fa tutti questi chilometri con la bicicletta. Sono riuscito a fare 107 chilometri una volta, sono rientrato a casa che avevo il 20%. Ovviamente quando non c'è necessità la spengo, capito? E vabbè, ti fai aiutare nelle salite, là. Sì, esatto. Carlo, come fai a pedalare e parlare? È un po' viene in salita, perché con la radio c'ho il Vox, capito? Ah, per quello, perché non capivo, YouTube mai sta prendendo in giro, come fa a pedalare e parlare? A meno che non ci abbia un microfono cuffia. No, la radio è attaccata al manubrio, c'è una fascetta e c'ho incastrato lì la clip a gancio cintura, capito? E poi c'è il Vox qua regolabile su tre livelli, l'avevo messo al massimo, però siccome la mia bici è elettrica, capito? E quindi quando c'è l'elettrico collegato fa un po' di interferenza, quindi crea un po' di disturbo. Se poi invece spengo, allora va tranquilla la radio. Però te devo dire una cosa, che io a Gianni l'ho sentito col portatile, c'è una radio fantastica, bella, molto chiara, pulita e anche forte. La tua è tutta una modulazione molto strana, infatti io non ti capivo quando parlavi, sembravi in FM, hai capito? Sì, hai ragione, perché praticamente ho scoperto che anche ho fatto le prove da casa, anche qua fa così. Se invece passi in FM è perfetta, solo che la ricezione in AM io sento benissimo, capito? In ricezione si sente bene, quando vai a trasmettere in AM sembra fuori frequenza, capito? È molto brutta la modulazione. Ricordi già quello che avevi, quel kit inizialmente quando abbiamo ripreso nella 27, cazzo, quello usciva forte, ma quello lì c'hai sempre? No, quello lì Caput, avevo recuperato la capsula, ho recuperato e basta, l'ho dismesso perché non funzionava più e a portarla a aggiustare non mi conveniva, capito? E l'ho attaccato una volta e ha fatto puff. Purtroppo era vecchio, ci aveva tanti anni, era un kit SOS per mettere in macchina in caso di urgenza. C'ho ancora l'antenna ce l'ho, che è praticamente quella con la base magnetica che si allunga, telescopica. Da quello lì usciva una bomba, usciva, me lo ricordo, lo usavi quando viaggiavi, ma tanti anni fa, ne usciva molto bene. Quello che hai adesso esce benissimo di radio, fortissimo, bella, chiara, forte. Mentre quello tuo, Carlo, sta cipaccando la modulazione, è brutta, l'FM non ti ho sentito. Va bene, avanti Antonello, buonasera, cambio. Cava, ho cambiato antenna, adesso sono con la mantovana a tubo sto uscendo. Perché poco fa ho attaccato il ricorso. Quel po' mi ha cagato che sono riuscito a mettere il microfono del Bobicon 40, gli ho piazzato. E riesce molto meglio. Ma prima era un disastro con la radio, mamma, non si poteva neanche cercare di sbattere dal balcone e faccio la scendere di giù. Ma io ti ho sentito, già esce bene, va bene. Ok, chi c'è oltre a Gianni e Carlo? Io. Tu Gianni e Carlo, basta. Sì, là, noi, solo noi ci siamo. Vai già, riprendi. I più forti. No, io sono, vabbè, mi trattengo ancora un quarto d'ora, poi devo andare, perché devo portare giù il cane, che stasera sono fuori, quindi non posso portarlo più tardi, devo fare da mangiare prima e tutto quanto. Fra un quarto d'ora vi lascio, che devo preparare. Mangia la pizza? No, non pizza, roba buona, roba al ristorante. Ah, buono, no, noi domani andiamo, non qua, no, a Sassari, però in albergo andiamo a trovare un amico che c'è un ristorantino di lusso, mangiano un po' di pesce, una giubbetta grega. Oggi no, oggi siamo a casa perché c'è gente tra l'altro. Va bene, Carle, riprendi, se passi vedi l'altra antenna che ho montato. 60 come quella che è tu, 8,50 m, però questa è 5 bande, questa è 10, 15, 20, 40, 80, 8,50 m, mi ha fatto scendere la canna, facilissima da montare, c'ha 5 radiali corti, a un paio di metri da terra, la sto provando, ma vedo che i segnali qua sono alla grande. Sono 15 metri, 21,255. Va bene, va bene. E quindi? Sì, ho visto che ne hai tre. Ho visto che ne hai tre adesso. Mi ha detto che c'hai i radiali, ma sono piccoli, perché non ci ho badato. Sì, sono dei tubi netto molto grossi, sono. Diciamo come il centrale, l'ultimo pezzo dell'antenna. Molto grossi e sono da un metro, 5 ce n'è, 5, un radiale per ogni banda, e poi c'è la bobina che scende in verticale dove sotto attacchi il PL, sempre della pickup a V doppio come le direttive che avevo, però questa è verticale, la sto provando, poi già sapevo già fare. Non sono manco uscito stamattina, ieri ho fatto un po' di lavoretti, sempre di giardinaggio, poi ho detto mi dedico a questa cosa, l'ho assemblata, l'ho piazzata, la sto tenendo sotto controllo, stazionaria non è da nessuna parte, anche perché vabbè, non c'è nessuna cosa di accordo, nulla, è già accordata, sono misure stabilite, quindi va bene. Antonello, a te il cambio, vai. Via, capace, già va bene, già va bene. Grazie, domani mattina mi andremo a zuffare, a collegare un Adonis e fargli lo spezzone. Devo andare da Fusaro a prendergli uno spinotto da 8, cioè, è uno spinotto da 8, devo prendere e così almeno gli costruisco lo spezzone per potergli agganciare il 2009 o cosa del genere. Speriamo di azzeccare il così, che si attacca un chimbo, se no sono fregato, cazzo. Ascolta, come domanda, ma quella roba là te la tengo, cosa faccio? Tienila, perché il primo di giugno ritiro, capito? E la prima parte, poi la seconda parte lo sai, il 15 di giugno. La domanda l'ho già fatta, quindi dovete avere pratica i soldi del garage e i soldi del coso e gli altri. Va bene, va bene, io c'è un sacco di gente che mi sta chiamando, ma non di qua, ho messo ho pubblicato qualcosa su, mi hanno pubblicato qualcosa su Facebook, un amico, io non ne ho, e mi stanno chiamando, però io sono a parola sola, ti aspetto, va bene, avanti Gianni. Non ne hai due, non ne hai due Claudio. Ma c'è quattro, non due. No, dico da vendere, non ne hai uno di Minuccetti e uno di chi era? Di Valerio. Ah, sono quello di Valerio, vendo quello di Minuccetti, ma lo voglio pagato io, ma lo sono tenuto io. Ah, ecco, solo quello di Valerio stai vendendo. Sì, sì, questo è quello che aveva Pinuccio. Questo ho messo la batteria a litio. Basta, ho fatto una pulita, l'ho rimemorizzato e niente, l'altro non manco toccato, l'altro non lo muovo. Perfetto. Ne ho per due miei. Non l'ha voluto. Non mi ha parlato per fare questo lavoro, poi gli ho telefonato, mi ha detto, ah, vendilo, non ne faccio niente, sempre dentro l'armadio, infatti si era scaricata anche la batteria. La tasca fa una cosa, ha passato e ti sono io, me lo sono tenuto io. Hai fatto, certo, se ti serve. Vabbè. Quant'è che si è arrivato ai 140 adesso come numero? Che ne ho avuto? 12. Fai sempre giù di me col Galaxy, io di Galaxy ne ho avuto 5, 6 ne ho avuto. Io ho avuto 12 140, 6 680, 8 440 e 5 430. Adesso ho 430, il 140 e il 920 della IESO, e poi vabbè gli altri 757 della IESO, 820 che sono già tutte quelle che ho, beh. Però dal 140 mi sono fatto la linea completa, proprio completa. Ma radio, correttore automatico che fa da correttore, rosmetro, wattmetro, commutatore d'antenna 4, alimentatore 10.50 e colonnina SP430. Italia ha completato quello, ma sono tenuto capito perché mi era rimasta qualcosa e quindi me l'ho nuovamente riallineato. Avanti Carletto, e tu non compareggi nulla, no, Marage, tanto gente è cruga. Io avrei preso tante cose, purtroppo lo spazio io non ce l'ho, una stanza dedicata, se no a voglia che me ne prendevo. Quindi ho dovuto fare un compromesso, un piccolo posticino, mi sono ricavato in cucina, però non lo so, se metto una mensola c'è uno spazio nel muro e forse riesco lì a sistemarmi un'altra radio, capito? Però voglio un attimino aspettare perché dobbiamo iniziare i lavori fuori, quindi molto probabilmente devo staccare la radio nel periodo settembre, ottobre, novembre, quindi devo togliere il cavo dell'antenna e poi ti ho detto che mi faccio mettere le canalette, me lo sistemo meglio, quindi solo dopo a quel punto mi faccio un impianto con due calate o tre, non lo so, e vedo un po', sicuramente metterò un'altra radio. Io beh, questo già è piccolo, 140 non è grande come il Galaxy, no? Il Galaxy vivo una scrivania, se a fianco al Galaxy l'FT920 non c'è più posto. No, 140 già è piccolo, non è grande, è un po' più grande di un veicolare, che va bene. Va bene, va bene. Avanti, motopompa. Allora, io ho tutti i casinati e gli apparecchi qua. Un po' a destra, un po' a sinistra. È una mansata, quindi figurati. Due o tre ne ho sopra il tavolo, poi c'è uno scatolone pieno di baracchini, con frontalini, eccetera, eccetera. Capito? Non voglio aprirsi. A parte l'alimentatore che devo sistemare, quello grande, quello che usavo con 80. Devo aggiungergli un po' di condensatori, devo portarlo da un amico mio per farlo qui e qualcosa, anzi non c'è neanche bisogno perché c'è giù in garage il coso per soffiarlo. Ce l'ho buttato lì, ce l'ho in garage, quello fa avere, così almeno lo pulisco bene. E poi devo mettere i ponti lì, lì basta, non devo fare altro. Quindi vabbè, si è fatto. No, io c'ho sempre la mia stanza. La base sto usando quella, inizialmente stavo usando quella piccola, poi essere affiancato contro la grande perché le radio sono tornate come erano prima. Va bene, va bene. Sì, è la stessa altezza, Carlo, l'antenna della J-Pod, però è molto più robusta, più grossa, anche un HF questa, verticale, della piccata W, speciale materiali particolari, abbastanza robusti. 280 euro più le spese di spedizione costa l'antenna, però a me non mi disimpegna, non metto altro. Oggi proprio mi sto facendo un po' di collegamenti per provarla, già va bene, ma a me non mi diverto un po' la... Vai Giannetto. Hai fatto bene a rilanciare perché sto andando via, vi saluto tutti cordialmente, vi auguro un buon continuo a queste ore e vado a prepararmi, dai, devo portare giù il cane e poi vado. Sciocchio, buona serata a tutti e buon weekend quando lo fate, se non ci sentiamo naturalmente. Ciao a tutti. Ricordate che non puoi mangiare tutto. Ciao Gianni, ti raggiungo Ricordate che non puoi mangiare di tutto. Io mangio di tutto, non ti preoccupare, già lo so io come regolarmi. Mangio poco di tutto. Ehi, ciao già. Ciao Claudio, Pomporio, l'altro non mi ricordo il nominativo. E con la C, Carlo. Ehi a Carlo, scusa. Non ti preoccupare. siamo qua, niente, mi facendo quattro chiacchiere. Claudio, toglimi una curiosità, avevo gli occhiali che danno una colorazione diversa, quelli antiriflesso, ma non è color acciaio quella che hai messo nuova di antenna? No, è sempre in alluminio, sempre color alluminio, forse era perché l'hai vista luce a nuova nuova. Ho montato a tavola ieri e la mattina ho fatto degli accorgimenti. Forse per quello, no, non è color acciaio, sempre alluminio, 8,50 m, però 5 bande, capito? Una verticale HF, verticale HF della PKW, della stessa marca delle direttive che avevo prima. Sì, no, è che avevo gli occhiali, quelli antiriflesso che uso in bicicletta, quindi non l'ho vista, diciamo, con gli occhi in maniera naturale, no? E mi dava tipo un colore, sembrava verdastro, ma sicuramente colore alluminio. Ah beh, colore alluminio sì, se è di alluminio, va bene. Avanti Fra, poi gira per Antonello. Ciao Gianni, buona serata, buon tutto, buon divertimento e buona cena. Avanti Fra. Ehi, ciao, dai. Ciao Gianni, dai, buon divertimento, già. Stai andando. Niente, mi ha fatto una battuta. Allora Claudio, senti, ma ancora la GPO c'hai tu? Sì, sempre, però ne ho montato un'altra, sempre a stessa altezza, un po' più robusta, però è una HF, capito? Solo HF, fa 10, 15, 20, 40 zampa. Solo quella lì. E basta, boh, ho finito, poi c'ho la B-banda V, la Mantova, la GPO, basta. Ecco, è buono. Va bene, ma avanti Antonello, Pomponio. Ehi, ciao, l'abbiamo sentito. Io la GPO non l'ho mai usata, la verità. C'è sempre questo canaglio di antenna, vabbè, la Mantova è vecchiotta ormai. Quando l'ho, c'è un po' di tempo, la butto giù e la pulisco bene, la pulisco, ho preso anche il palo e poi ce la rimetto. Così vediamo se migliora un pochettino. E cambia anche il cavo naturalmente, c'è la rigiduciatrice, se ne sta vivendo. Magari quel radiale che manca glielo metti pure, Antone. Quel radiale che manca glielo metto, sì, ce l'ho qui in terrazzino, quindi serve anche la ripiazzata perché è bruttina senza radiale. Ma tu non dovresti avere molti problemi, perché se ce l'hai dal terrazzino ti metti una scala, magari ti fai aiutare da qualcuno, se vuoi una mano quando lo vuoi fare. Non ci metti molto. Già lo so. No, la radiale già è facile da piazzare. Il problema è smontare la moto, va che è un casino. Perché c'hai i bulloni e i capito doppi. Ce n'è uno praticamente sopra e un bullone ce l'ha al centro. E c'ha delle fascette strane. Quindi per poter bloccare quel bullone lì, se svita, ci vuole una pizza becchi, capito? Di quelle piccole, e quindi bisogna fare piano piano. Una volta che tu hai svollato devi beccare il giusto momento, perché qui c'è sempre il vento, per poter estrarre l'antenna dal palo, pulire il palo bene con la carta abrasiva e poi rifilarci nel nuovo vento, capito? Dove c'è il vento sempre qua, e devi stare cazzo aspettando, cazzo a infilarci da dentro, devi fare 1, 2, 3 oppure aspettare 1, 2, 3, perché se passa una passata di vento forte te ne scende l'antenna tutto dalle mani. Sì, basta fare piano quando il tempo è stabile, capito? Lo fai quel lavoro. Io la J-Pol a rasora l'ho messa, e l'ho messa anche in alto, solo che a mio vantaggio che è un piccolo tetto, capito, dove prima l'ho fissata in basso e poi avendo il tubo a stilo, capito, ho sollevato piano piano, poi ho stretto i bulloni, capito, avevo abbastanza cavo e quindi l'ho tirata su. Adesso è al di sopra delle antenne TV, però non disturba niente, perché io ho l'antenna centralizzata della TV e trasmetto anche quando sono attaccato, non fa più niente. col tubo a filo è una cosa diversa, però l'ho già avuto, capito, il tubo così, l'avevo comprato da GBC, l'avevo installato, io già ne bravo due, quel palo, l'abbiamo solo, già mi ha detto, io lo solleviamo almeno un 3 metri, e poi domani gli ho detto, tanto è già tardi, gli ho detto, mettiamo i tiranti, qui arriva questa passata del vento. Prima ne è caduta quella di fronte a casa mia di Giacomo, l'ha levato nuova, la diamo, mila mi, pigliato un ballone in terra. Dopodiché è toccata la mia, è toccata.